Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti. Mentre si fa sempre più chiaro la truffa del famoso, tra virgolette, progetto di pace di Trump, che in realtà non è l'ennesima annessione di territorio palestinese, un 30% strappato ai palestinesi per regalarlo al governo di Bibi Netanyahu ai coloni, di questo parleremo, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Iraq, da ottobre 121 attivisti delle proteste sono stati uccisi o sono scomparsi. Israele e Palestina, l'Agenzia per la sicurezza interna israeliana rassicura i vertici palestinesi. Per qualsiasi annessione ci vuole tempo. Siria, giornalista ferito gravemente. Bangladesh consente ai minori Rohingya di studiare. Grecia, confine galleggiante per fermare i migranti dalla Turchia. E ancora Afghanistan, Amnesty International, i civili continuano a pagare il prezzo del conflitto. Venezuela, Maduro ratifica la lotta contro i governi egemoni e offre un po' di diplomazia alla Colombia. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dall'Iraq. Il presidente iracheno ha dato una scadenza ai blocchi politici rivali per selezionare un primo ministro quasi due mesi dopo che il premier uscente si è dimesso sotto le pressioni delle manifestazioni di massa. Intanto continua la violenza di piazza Tahrir, l'epicentro delle proteste popolari, con le forze di sicurezza che usano pistole con proiettili di gomma per disperdere i manifestanti. È la prima volta che si usa questo tipo di arma. Finora le forze di sicurezza hanno ucciso i manifestanti, 550 ragazzi e ragazze, con proiettili vivi e candelotti di gas lacrimogeno. Sempre sul fronte proteste, Ali al-Bayati, membro dell'alta commissione irachena per i diritti umani, ha rivelato che 121 attivisti iracheni sono scomparsi o sono stati assassinati dall'inizio delle proteste ad ottobre. L'ISIS ha iniziato a riorganizzarsi in Iraq e in Siria sotto un nuovo leader ritenuto un agente iracheno che ha guidato il genocidio da parte del gruppo contro il popolo yazida, secondo un rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite diffuso ieri. Il rapporto di ampio raggio compilato dal gruppo di monitoraggio delle Nazioni Unite, che traccia la minaccia globale del terrorismo jihadista, l'ISIS, a seguito della sua perdita di territori, ha iniziato a riaffermare sia nella Repubblica Siriana che in quella irachena, innescando attacchi ribelli sempre più audaci, sfruttando le debolezze dell'ambiente in cui si trovano entrambi i paesi. Siria, l'esercito ha riconquistato una cittadina nel nord-ovest, Mared al-Numan. Era controllata dai gruppi ribelli e jihadisti, cittadina chiave della provincia di Idlib. Un giornalista della rete televisiva russa RT è stato gravemente ferito mentre seguiva il ritiro. Wafa Shabruni stava parlando da un deposito di armi abbandonato dai ribelli in ritirata quando è esplosa una granata. Il corrispondente è vivo ma con gravi lesioni ed è stato portato all'ospedale di Hama. Israele e Palestina, Gaza prevista per domani una manifestazione al confine contro il piano di Trump. I soldati israeliani aumentano la loro presenza lungo la striscia. Mahmoud Abbas, il presidente dell'autorità palestinese, minaccia di rompere la cooperazione per la sicurezza con Israele, ma ci sarebbero stati degli incontri segreti tra i funzionari della sicurezza israeliana interna, lo Shin Bet e le forze armate, che hanno cercato di calmare la controparte palestinese esortandoli a non prendere in fretta decisioni unilaterali, perché anche se Netanyahu approverà le leggi di annessione della Valle del Giordano e degli insediamenti, ci sono tanti ostacoli legali, politici e internazionali che sarà quasi impossibile attuare la decisione prima delle elezioni israeliane che si tengono tra un mese. Ma abbiamo in collegamento da Gerusalemme Angela Gennaro. La Palestina non è in vendita. Questo urlavano i manifestanti scesi in piazza nella striscia di Gaza contro il piano di Trump, mentre calpestavano bandiere americane e ritratti del presidente statunitense e del primo ministro israeliano Netanyahu. Non in vendita sono anche le parole del presidente palestinese. Il piano non verrà mai implementato perché non c'è alcuna controparte palestinese, si legge sul Jerusalem Post. Le Monde definisce l'accordo un allineamento senza precedenti sulle esigenze degli israeliani. Amnesty International ha definito vergognoso il pacchetto di proposte presentato dall'amministrazione americana per, e qui cito, violare il diritto internazionale e privare ancora di più i palestinesi dei loro diritti. È un manuale di istruzioni per ulteriore sofferenze e violazioni, dice Amnesty, che sollecita la comunità internazionale a respingere le misure previste dalle proposte di Trump, come quella dell'estensione formale della sovranità di Israele sulla Valle del Giordano e sulla maggior parte degli insediamenti illegali nel resto della Cisgiordania occupata, in cambio di terre che si trovano attualmente all'interno di Israele. Manifestazioni di protesta si sono registrate ad Haifa, Ramallah, Jenin e Betlemme, in Cisgiordania. A Tulkarem ieri è stato annunciato anche uno sciopero. L'accordo del secolo, scrive il Times of Israel, potrebbe aver avuto nel frattempo l'effetto di riunire le differenti fazioni palestinesi di Hamas, che è il controllo della striscia di Gaza, e Fatah. Un secco no a livello internazionale è arrivato dalla Giordania e dall'Iran. Per la Turchia quello di Trump è un piano nato morto. Usurpare la terra ai palestinesi non è la soluzione del conflitto, dicono. Fredde le Nazioni Unite, che hanno ribadito la posizione ufficiale, cioè che i confini fra i due stati, israeliano e palestinese, sono quelli precedenti la guerra del 1967. Ma i palestinesi si siederanno al tavolo, assicura Trump. Non da subito, dice, ma lo faranno senza di loro. D'altro canto, ha spiegato ancora il presidente americano, l'accordo non si fa. Da Gerusalemme per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Angela, non si placano, come accennava nel collegamento, le reazioni internazionali al piano di pace per il conflitto israelo-palestinese proposto da Trump, alla serie di condanne tra cui Giordania, Turchia, Iran, i palestinesi. Naturalmente si aggiunge anche la Lega Araba, che parla di grande violazione dei diritti dei palestinesi. L'Iraq, la Siria si oppongono, il Marocco invece apprezza gli sforzi di Trump, a favore anche l'Arabia Saudita, Emirati, Egitto, tutti grandi alleati degli Stati Uniti. Sul fronte europeo, il Regno Unito, che si sta lasciando con l'Europa, ha accolto calorosamente il piano di pace, mentre la Francia e l'Unione Europea in generale hanno detto che si deve rispettare il diritto internazionale. Intanto nella striscia ieri aerei israeliani hanno attaccato alcune postazioni di Hamas, Khan Yunis, alcuni terreni agricoli di Deir al-Balah appartenenti alle brigate di Izz al-Din al-Qassam, la loro ala armata. Libia, il presidente francese Macron ha accusato la sua controparte turca Erdogan di aver infranto la promessa di rimanere fuori dalla Libia. Macron ha affermato che navi da guerra turche accompagnate da mercenari siriani sono state avvistate in arrivo in Libia. Erdogan non ha risposto alle accuse. All'inizio di questo mese i leader mondiali si sono impegnati a non interferire nel conflitto civile in Libia e hanno promesso di sostenere un embargo sulle armi delle Nazioni Unite. La Turchia sostiene il governo di accordo nazionale, il GNA, sostenuto dalle Nazioni Unite a Tripoli, mentre la Francia ha coltivato legami con il rivale del governo, il generale ribelle Khalifa Haftar. Dall'aprile 2019 il GNA ha reagito contro un'offensiva lanciata dai combattenti fedeli al generale Haftar. Nigeria, 41 decessi sono stati registrati nell'ultimo focolaio di febbre Lassa, febbre emorragica virale acuta che continua a diffondersi nel più popoloso paese africano, hanno detto mercoledì il centro locale per il controllo delle malattie. In una dichiarazione resa, il Center for Disease Control della Nigeria ha affermato che 258 casi confermati della malattia sono stati registrati in 19 dei 36 stati del paese dall'inizio dell'anno. Finora ci sono stati 689 casi sospetti, la maggior parte di questi casi è stata registrata negli stati meridionali di Ebonyi, Edo e Ondo. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Malta, imbrattato il memoriale della giornalista uccisa Daphne Caruana Galizia, secondo episodio di vandalismo nel giro di due giorni. La Grecia prevede di installare una barriera galleggiante per impedire ai migranti di raggiungere le isole greche della Turchia. Il ministro della difesa greco ha chiamato appaltatori privati per presentare un'offerta per la fornitura di una barriera galleggiante lunga 2,7 chilometri entro 3 mesi. La Turchia e l'Unione Europea hanno siglato un accordo sui rifugiati nel 2016 per ridurre l'afflusso di rifugiati siriani che arrivavano in Grecia. Una condizione chiave dell'accordo era che i migranti che arrivavano sulle isole greche sarebbero stati restituiti in Turchia a meno che non avessero presentato domanda e ottenuto asilo in Grecia. Di recente gli arrivi di migranti dalla Turchia alla Grecia sono aumentati drammaticamente. La barriera reticolata si innalzerebbe di 50 centimetri, 20 sopra l'acqua, e sarebbe progettata per contenere luci lampeggianti, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa. Il progetto si stima costerà 500.000 euro e comprende 4 anni di manutenzione. Regno Unito, la BBC taglia 450 posti di lavoro nella sua redazione giornalistica. Il Parlamento europeo ha approvato le condizioni di abbandono della Gran Bretagna dall'Unione europea, decisione finale nella saga della Brexit di 4 anni. Il voto è stato 621 a 49 in favore dell'accordo sulla Brexit che il primo ministro inglese Boris Johnson ha negoziato con gli altri 27 leader dell'Unione europea nell'autunno dell'anno scorso. Il comitato investigativo russo ha arrestato 5 agenti della polizia, siamo a Mosca, coinvolti in un controverso arresto di droga di un importante giornalista investigativo l'anno scorso, e ha dichiarato che saranno accusati di aver fabbricato prove per incriminarlo. Ivan Golunov, 37 anni, venne arrestato nel giugno 2019 a Mosca con l'accusa di spaccio di droga, accuse che ha respinto dicendo che era una montatura. Il giornalista ha sostenuto che le droghe trovate nel suo zaino e nel suo appartamento erano state messe dalla polizia per vendicarsi delle sue indagini sulla corruzione nella comunità delle forze dell'ordine di Mosca. Afghanistan, i civili hanno continuato a pagare il prezzo del conflitto in corso, poiché la giustizia si è rivelata sfuggente per le vittime, ha dichiarato Amnesty International, mentre l'Organizzazione per i diritti umani ha pubblicato il suo rapporto annuale sugli eventi nella regione Asia-Pacifico, di cui troverete naturalmente il link sul sito. Le vittime civili sono elevate durante tutto l'anno, con luglio che segna il mese più mortale mai registrato, e l'Afghanistan rimane il conflitto più mortale al mondo per i minori. Centinaia di migliaia di persone sono sfollate internamente, 500.000 di afghani sono stati rimpatriati con la forza dai paesi vicini e diverse altre migliaia dall'Europa, in particolare dalla Turchia. Giornalisti e difensori dei diritti umani hanno continuato ad affrontare intimidazioni, minacce, detenzione e persino la morte per il loro lavoro. Intanto a un posto di blocco nella provincia turbolenta di Kunduz almeno 15 soldati afghani sono stati uccisi durante un'imboscata talebana e altri 14 nella provincia di Baghlan. Invece, durante un raid notturno sul confine occidentale dell'Afghanistan, le forze speciali afghane hanno salvato 80 ostaggi, tutti militari afghani, in una prigione talebana. Sorpresa e gioia tra i profughi Rohingya, che ieri hanno appreso la notizia che il Bangladesh acconsentirà all'istruzione dei minori 2 anni e mezzo dopo essere stati costretti a fuggire dal Myanmar. I gruppi per i diritti umani da tempo hanno fatto pressione perché quasi 500.000 di minori Rohingya effettivamente apolidi nei campi profughi del Bangladesh abbiano accesso a un'istruzione di qualità, avvertendo del prezzo di una generazione perduta. Oh mio Dio, il Bangladesh ci sta lasciando studiare, ha esclamato Muhammad Zubayer, 19 anni, per telefono quando la Reuters gli ha parlato della decisione presa questa settimana ma non formalmente annunciata. La scolarizzazione arriverà a fine 14 anni e ci sarà una formazione successiva al posto dell'apprendimento che era riservato solo ai bambini più piccoli. Cina, 170 morti, oltre 1700 casi di coronavirus. La nazionale di calcio femminile in quarantena, il 22 gennaio scorso era stata a Wuhan, 11 nuovi casi di contagio a Pechino, anche se l'infezione sembra rallentare. Si terrà oggi una nuova riunione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Primo caso in Tibet, in Europa si contano 4 casi in Francia, 4 in Germania e ora 1 anche in Finlandia. Oggi invece dovrebbero essere rimpatriati gli italiani, circa una settantina, presenti a Wuhan. Dovranno seguire un protocollo definito dal Ministero della Salute. Evacuazione anche per i giapponesi. La British Airways ferma i voli da e per la Cina, si ferma anche l'Indonesia Lion Air, l'Air France riduce i voli. E concludiamo con il Venezuela. Il presidente Nicolas Maduro ha ratificato ieri la richiesta di rispetto della diversità culturale, politica, sociale e religiosa come parte delle linee di base della rivoluzione bolivariana nella lotta contro i governi egemoni. Maduro aveva tagliato i legami diplomatici con la Colombia all'inizio dello scorso anno, quando avevano dichiarato il loro sostegno a Guaidó, leader dell'opposizione, aiutato in un fallito tentativo di portare aiuti attraverso il confine in Venezuela. Maduro ha dichiarato ieri di essere disposto a ripristinare i rapporti diplomatici rotti con la vicina Colombia, riattivando i servizi consolari nel pieno di un conflitto derivante dalla cattura di una parlamentare fuggitiva. La polizia in Venezuela infatti questa settimana ha arrestato Aida Merlan, un'ex senatrice in Colombia che è scappata per sfuggire a una pena detentiva di 15 anni con una condanna che include frode elettorale e accuse di possesso di armi. Con le guardie che aspettavano fuori mentre si sottoponeva a una procedura dentale, scivolata con una corda dalla finestra di un terzo piano e poi si è fatta strada attraverso il confine in Venezuela. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. E se volete sostenerci, perché siamo una radio indipendente che cerca di raccontare ogni giorno al mondo, potete andare sul nostro sito www.radiobullets.com/sostienici. A domani. My Sweet Lord di George Harrison. Ma veniamo invece al tema della notave. Era stato lui condannato per violazione di domicilio per aver documentato in realtà giornalisticamente un'occupazione simbolica di notave. Il tribunale di Torino non aveva distinto il lavoro di giornalista dall'attivismo militante. La Cassazione ha però annullato le condanne a carico del giornalista Davide Falcioni. L'intervista ai nostri microfoni, sentiamo le sue parole. Sicuramente è un tiro, un sospiro di sollievo dopo una battaglia legale che è durata più di 6 anni ormai, e quindi sia io che il mio avvocato che tutta anche il gruppo di Fanpage siamo molto soddisfatti. Crediamo che il senso di questa sentenza sia, per l'appunto, come hai spiegato bene tu, annullare le condanne precedenti, perché erano condanne ingiuste e quindi da non emettere. Tuo caso si era interessato anche a Amnesty International, perché semplicemente non era una questione solo personale, ma riguardava più in generale il diritto all'informazione. Sì, riguardava il diritto all'informazione, e Amnesty ha fatto bene a interessarsene, credo, perché quello che più volte è stato ribadito in questi anni nei tribunali a Torino è che un giornalista debba sempre chiedere cosa è successo alle autorità, alla polizia, in questo caso nella fattispecie. Credo non sfugga la gravità di questa affermazione, cioè se tutte le volte ci fossimo basati nei nostri racconti e nella storia di questo paese sulle ricostruzioni della polizia, oggi dei casi gravissimi, penso al caso Cucchi, penso a quello che è successo a Genova nel 2001, non sarebbero arrivati alla verità. Questo è il senso dell'impegno di Amnesty e dell'impegno poi di chi si è speso in questi anni per questa battaglia. Non credo che siano ancora uscite le motivazioni, ma qualcosa la Cassazione ha già detto per annullare le condanne? No, non sappiamo, non conosciamo le motivazioni, e usciranno credo tra qualche mese, quindi non ho elementi per commentare ulteriormente la sentenza, però diciamo il senso mi sembra chiaro ed è non andavo condannato. Oltretutto, questa vicenda tu hai cominciato da testimone e poi sei passato sul banco degli imputati. Sì, quella è stata diciamo la particolarità con cui è iniziato il caso giudiziario. Più volte mi sono chiesto se io avessi invece testimoniato contro i notav, se loro avrebbero e mi avrebbero accusato ugualmente di violazione di domicilio, come hanno fatto poi invece dopo. Sì, questo rimanda poi a un tema che insomma avevamo affrontato anche la prima volta che ci siamo sentiti, su come nei confronti del movimento notav la giustizia sia abbastanza pesante, ecco, sì, accanita, particolarmente accanita. Sì, ovviamente siamo contenti per te. E adesso tecnicamente cosa succederà? Ma adesso tecnicamente la Corte d'Appello di Torino, con un'altra composizione di giudici, dovrebbe riesaminare il mio caso. Non so se però nel frattempo interverrà la prescrizione, questo ovviamente non dipende da me. Tecnicamente la Corte d'Appello però dovrebbe riesaminare nuovamente il caso e emettere una nuova sentenza. Il mio mitra è il contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia ciò che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Canto per te che mi vieni a sentire. Suona per te che non mi vuoi capire. Rido per te che non sai sognare. Suona per te che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è la luce che riscalda la mia mente. Con il suono della dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente Segna stampa di Radio Città Fujita. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Nove 30 minuti di questo 30 gennaio, giovedì, buongiorno a tutti voi, siete all'ascolto della rassegna stampa all'interno di Radio Zannardi e comincia subito con la truffa israelo-americana del famoso cosiddetto piano di pace di Trump, che in realtà non fa altro che rubare bene il 30% di terra alla Palestina per consegnarla ai coloni ebraici. Allora, dice il manifesto commentando con Michele Giorgio questo scippo, e chiamiamolo scippo per essere generosi, Netanyahu ora ha fretta per l'annessione unilaterale. Quindi adesso Netanyahu si piglia tutta la valle del Giordano, poi dopo si discute del resto. Il presidente palestinese Abu Mazen pronta a negoziare col quartetto per il Medio Oriente, che naturalmente non è in linea con l'accordo di Trump. Ma Bibi Netanyahu, che tra l'altro è in campagna elettorale come Donald Trump, non può permettersi una frattura politica a destra, perché l'appetito viene mangiando. E allora ci dice il Fatto Quotidiano con Fabio Scuto: coloni, fuoco amico sul piano del secolo. Così Trump l'ha definito il piano del secolo. L'ultradestra boccia la soluzione americana e la Cisgiordania deve essere tutta nostra. Quindi la grande Israele, dal Sinai fino al Tigre e l'Eufrate, diventa, rimane la stella polare dei coloni ebraici, ma naturalmente in realtà intascano quello che passa questo piano. In America c'è chi non è d'accordo, evidentemente, sono i movimenti che scendono nelle piazze, e non se ne parla, ma ci sono, e anche nella politica è un furto. Sanders Warren contro Donald Trump. Il famoso patto del secolo presentato da Trump, dice ancora il manifesto questa volta con Marina Catucci, è stato accolto in patria da un'ondata di critiche che da parte di molti membri e anche da parte di molti membri del Congresso. La senatrice candidata per le primarie del Partito Democratico, Elizabeth Warren, ha scritto su Twitter che il piano di Trump è un'approvazione automatica e sconsiderata per l'annessione e non offre alcuna possibilità per un vero Stato palestinese. E poi abbiamo la destra opinione, anche Bernie Sanders, anche lui scrive su Twitter: gli Stati Uniti possono portare una leadership senza uguale nella risoluzione del conflitto arabo-palestinese, ma dobbiamo usare quella leadership per promuovere un accordo giusto e duraturo. Qualsiasi accordo di pace accettabile deve essere coerente col diritto internazionale dei molteplici risoluzioni delle Nazioni Unite. Tra le altre, i corni del problema, oltre che la Valle del Giordano e l'acqua del Giordano, anche che è una fonte primaria, l'oro blu per tutta la zona, che già è in mano agli israeliani, ma così viene coltamente scippata ai palestinesi, c'è il tema della spianata delle moschee. Sappiamo che è un posto incredibile, perché abbiamo al contempo il Muro del Pianto, luogo sacro per la religione araba, ma anche la terza moschea Domo Zerok della religione musulmana nella città vecchia. Allora, chi potrà pregare nella spianata? Perché col nuovo piano di Trump i palestinesi sono fuori, e naturalmente questa è un'onta per l'intero mondo arabo. La città vecchia nel piano di Trump, la visione della Casa Bianca sembra modificare le regole in vigore dal 1967. Questo è il quadro. Ma sui piani di pace, quelli del secolo di Trump, commenta anche Giampiero Gramaglia dal Fatto Quotidiano: Trump, la guerra infinita, altro che pace, più bombe per tutti. Perché anche questo accordo, che viene avvallato peraltro dai peggiori stati fascisti arabi come l'Egitto, l'Oman e il Qatar, detto questo, che vengono chiamati gli stati moderati, non so che cosa moderati, comunque Oltre alla Palestina, il Fatto Quotidiano con Giampiero Gramaglia va in Afghanistan. Nel 2019 la Casa Bianca ha dialogato con i talebani per un accordo, ma li ha bombardati 8 volte, più che negli ultimi 10 anni, e il contingente italiano rimane lì. Buongiorno Alfredo e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. E Repubblica invece è un po' più sugli scudi. Dopo questo accordo, il Century Deal che ha proposto Trump a Israele, sono rimasti senza fiato. Però Repubblica dice che il mondo arabo è ancora in silenzio, anche se subito le manifestazioni a Ramallah, ce lo dice Davide Lerner dalle pagine di Repubblica come inviato, subito nella serata a Ramallah 7 piazze si sono riempite di persone per manifestare contro questi accordi maledetti. E ancora però Repubblica dice che è blanda la reazione di Arabia, della provincia araba, e blanda la reazione di Erdogan, e gli unici proclami di fuoco li hanno lanciati gli iraniani e i libanesi degli Hezbollah, nemici acerrimi di Israele. Alla Muqqada si consolano pensando che almeno per ora si tratta soltanto di una proposta e non dell'imposizione e di fatti compiuti, ma mentre le concessioni di Israele sono reali e immediate, il premier Benjamin Netanyahu aspetta solo il via libera americano per procedere all'annessione degli insediamenti e la valle del Giordano. Quelle dei palestinesi dipendono da condizioni quasi irrealizzabili. E in tutto questo, sempre sulle pagine di Repubblica, Vincenzo Nigro da Roma ci dice: l'Italia che fa? Aspetta e prende le distanze, aspettiamo il voto in Israele. E da pochi giorni Luigi Di Maio ha iniziato ad occuparsi a pieno regime di politica estera alla Farnesina, con molte riunioni, molte telefonate, sia in Libia con un incontro col ministro degli esteri di Cipro, e poi il via libera a un comunicato sul piano Trump, il testo in cui il gabinetto ha distillato messaggi sottili ma molto chiari. Le prime parole sono esemplari nell'apprendere la pubblicazione del piano americano per il processo di pace in Medio Oriente. L'Italia accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti al fine di favorire il rilancio. Ricordiamo che in realtà le prossime elezioni in Israele sono i primi di marzo, e Benjamin Netanyahu ha rifiutato la protezione politica e l'immunità parlamentare per affrontare le sue beghe personali nei processi indiziari sulle sue truffe elettorali. E che anche il partito competitor di Bibi Netanyahu è d'accordo sui piani di pace di Trump, quindi cosa aspetta Di Maio non si capisce. Comunque, esatto. Il manifesto nella pagina internazionale va a intervistare Mustafa Barghouti. Barghouti da sempre il punto di unità del popolo palestinese dalle sue divisioni nelle diverse fazioni e partiti. Unità nazionale contro l'apartheid degli Stati Uniti d'America. La questione, dice Barghouti a Michele Giorgio, è posta in termini molto chiari. Da un lato c'è la libertà e dall'altro sistema di apartheid che la Casa Bianca vuole imporre ai palestinesi. L'ultima domanda di Michele Giorgio è interessante, perché quanto è credibile, che domanda Giorgio a Barghouti, il rischio che tra i palestinesi si levitino voci a favore dell'apertura di questa trattativa? Forse peseranno i 50 miliardi di dollari che lo sviluppo economico e sociale dei territori palestinesi di cui parla Trump? Quei miliardi di dollari sono un'invenzione, non esistono, sono non solo sciocchezze, lo sanno anche i bambini. Certo, qualche palestinese potrebbe mostrare interesse per il piano di Trump, ma mi aspetto che lo facciano soltanto gli opportunisti e i collaborazionisti di Israele e di USA, perché è fin troppo evidente che la soluzione che gli americani hanno fra i palestinesi è solo un'enorme prigione. Su questo sentiamo anche il commento di Luisa Morgantini di Assopace Palestina. Ogni cosa è problematica. Ed è una cosa che non riguarda soltanto la Palestina, in realtà riguarda noi e il nostro futuro anche, perché con questa proposta di piano presentata soltanto ad una delle parti, peraltro in pompa magna, con musiche eccetera, abbiamo un nuovo imperatore, un piano che è soltanto umiliazione per i palestinesi ed è soltanto a parte, non c'è giustizia giustizia, non c'è libertà per i palestinesi, non c'è sovranità, c'è un po' di autonomia in alcune zone dove vige un altro sistema invece di quello israeliano. È veramente terribile, perché siamo di fronte a un paese, due paesi, che si assumono e si arrogano il diritto di decidere di vita e morte di un altro popolo, escludendo completamente le Nazioni Unite, escludendo completamente l'Europa, che peraltro fanno pena perché sussurrano e si indignano e dicono che non è accettabile, non fa parte della vita internazionale, però in realtà passerà. Vediamo come reagiscono i palestinesi, ma poverini, sono stremati, distrutti da 70 anni di Nakba e più di 50 anni di occupazione militare che ha visto quel territorio cambiare profondamente. Netanyahu è felice, crede di aver raggiunto la grande Israele, non so se invece comincia ad essere anche la fine di questo piano. Io spero che la comunità internazionale non solo si indigni, ma cominci a far pesare su Netanyahu di Israele il fatto che deve anche loro possono essere di sopra delle leggi. Il piano è tremendo, perché prevede praticamente l'annessione di tutte le colonie, piccole e grandi, ha detto Trump, mentre invece perlomeno fino a qualche tempo fa le colonie piccole, quelle maggiormente religiose, diciamo fanatiche, nazionaliste, messianiche, che erano nell'area nord dell'Infernablus, Jenin e Calandia, quelle venivano, era previste e distrutte anche dal piano Obama, invece niente, lui tutte quante, quindi è un'annessione coloniale del 60% e più del territorio palestinese. Il fatto poi che si vogliano annettere la valle del Giordano, una volta il cestino del pane dei palestinesi, perché la grande produzione dell'agricoltura palestinese, che via via negli anni è diventata invece una monocultura con la produzione di piantagioni di palme da parte israeliana dei coloni, ormai è stata praticamente sconvolta dal fatto che nel 67, quando Israele ha occupato i territori sui quali la comunità internazionale prevede lo Stato di Palestina, vi erano 375.000 abitanti, oggi ce ne sono 40.000 di palestinesi, tutti gli altri sono stati evacuati, cacciati, impediti, se non nell'area di Gerico, di costruire, di svilupparsi. Ogni giorno ci sono notizie di evacuazione di territori, quindi è un piano nefasto per i palestinesi. E questa è Luisa Morgantini di Assopace. Veniamo invece alle altre degli esteri, per cui si è consumato ieri in Parlamento Europeo a Bruxelles l'abbandono ufficiale e anche così di rito della Gran Bretagna, la Brexit insomma, dall'Unione Europea. Lacrime, bandiere e boccali di birra. Il Parlamento dell'Unione Europea dà l'addio a Londra. C'è un Michael Farage che sventola la bandierina del Regno Unito, Union Jack. Sabato la Brexit, Farage festeggia per l'appunto, entrano tre deputati italiani e godi per la Francia, perché bisognerà sostituire appunto i laburisti conservatori o gli uomini di Michael Farage che non ci saranno più. E poi c'è la Volpe l'Uva, che è di Luigi Ippolito, nella pagina Fronte del Corriere, da cui leggo: perché oltre Manica non sono mai stati europei. Quindi prima erano insostituibili, adesso non sono mai stati europei. Comunque vabbè, queste sono cose che ci si lascia poi alle spalle il giorno dopo questi commenti, mentre la Brexit si sentirà il peso anche economico a venire. Nel frattempo a Bruxelles peraltro c'è anche un'altra cosa, capita anche un'altra vicenda, ovvero sia la lezione in tutti i sensi della Liliana Segre, che ricordando appunto i campi di sterminio ha commosso la platea e ricevendo in finale una standing ovation da parte degli eurodeputati. Il razzismo esiste, dice la signora, oggi c'è chi lo sfrutta. Parla di Auschwitz e commuove appunto l'Europarlamento, conferma Ivo Caizzi. Fino alla morte, da 30 anni parlo nelle scuole, sento come una difficoltà psichica continuare, anche se è mio dovere, fino alla morte. Questo è quanto. A proposito di revisionismi, gente che nega e quant'altro, segnala poi invece da Bologna una cosa importante che a sua volta lo segnala il Corriere di Bologna: la resistenza senza armi. Oggi l'Istituto Parri, il saggio di Avagliano e Palmieri, militari italiani nei lager nazisti, dito dal mulino, le storie di 650.000 deportati. Sì, sulla Brexit Repubblica a un corrispondente, Antonello Guerrera, che ci fa il punto su cosa cambia. E c'è una fotonotizia dove c'è Farage che ha i calzini con la bandiera inglese e ci dice anche quanti sono gli europei: 2,8 milioni di cittadini che vivono in Gran Bretagna e devono registrarsi per diventare residenti permanenti. E ricordiamo che le trattative sono durate ben 11 mesi. E ancora oltreoceano, nelle Americhe Latine, in Cile nasce il primo partito femminista. Le donne vogliono contare. Il movimento contro la violenza machista punta a entrare nell'assemblea costituente. Daniele Mastrogiacomo, l'inviato appunto in Cile, ci fa questo reportage. Il partito si chiama Partito Alternativa Femminista, punta a entrare nell'assemblea costituente e incidere nella rifondazione dello Stato. E mentre Trump ne combina di tutti i colori in Medio Oriente, a casa sua Trump diffida Bolton pubblicare, a proposito dell'impeachment, notizie top secret. L'ex consigliere della sicurezza americana John Bolton, autore di un libro in uscita a marzo, è stato appunto tacciato da Trump. E direi che sull'estero ne abbiamo ancora. Sì, infatti parliamo col manifesto della Libia. Disumano finanziare i campi libici. Accordi Italia-Libia, intervista dall'eurodeputato Pietro Bartolo del PD. Tra le 72 ore il memorandum d'intesa tra Roma e Tripoli per il contenimento dei flussi migratori sarà prorogato per altri 3 anni. Naturalmente questi campi libici sono sotto i bombardamenti anche di Haftar, oltre che delle sevizie, gli stupri e le bastonature dei miliziani di Sarraj. Quindi questo è allora cambiamo passo, dice Miraglia dall'Arci, diritti e buone leggi, questo è il manifesto. Ma sulla Libia naturalmente c'è un incrocio tra petrolio, che è bene più importante dei diritti secondo tanti uomini di Stato del mondo, e quindi Roberta Zunini: al sultano non basta la Libia, Erdogan vuole tutto il Sahel. Il presidente turco in Africa per avere risorse e scambi commerciali proficui con Senegal, Somalia, Congo e Gambia. Quindi qui si troverà uno scontro con la Cina, di cui parleremo nel frattempo. Però secondo media libici la marina turca ha trasportato blindati e soldati a Tripoli. Ankara aveva affermato ripetutamente di essere pronta ad inviare truppe in aiuto al governo di unità nazionale di Tripoli, riconosciuto dalla comunità internazionale. Il principale responsabile dei problemi in Libia dall'inizio della crisi del 2011 è la Francia, ha dichiarato il portavoce ministro degli esteri turco Amsoy, dopo le critiche alla Turchia avanzate dal presidente francese Macron. Quindi questo era a proposito dell'accordo stilato a Berlino di non trafficare armi con i paesi belligeranti. Ma parlando della Cina, chiaramente questo ci porta al coronavirus, che è, ahimè, padrone di tantissimi titoli di apertura dei giornali questa mattina. Per esempio andiamo: Cina chiuso per il virus, la Repubblica, il Messaggero, virus italiano in quarantena, la Stampa, la grande fuga dal virus cinese, aerei aterei e fabbriche ferme, il Mattino, virus italiani in una caserma, quindi abbiamo ancora virus il secolo XIX, gli italiani e a Wuhan rimpatriati in 3 giorni, poi scatterà la quarantena, il Carlino, gli italiani via dalla città infetta, e via dicendo. E per finire con l'Avvenire, sindrome cinese. La Destra così titola: il Libero, un po' di chiarezza sul virus cinese, il pericolo maggiore è il panico, mentre il Tempo parla anche questo di panico, virus anche a scuola e psicosi. Il capo dei presidi dell'ASI: i genitori temono i compagni cinesi dei loro figli appena tornati da là. Tutti a comprare mascherine, ma molte di quelle ora in vendita a Roma sono prodotte a Wuhan. Questo è uno delle famose paradossi della globalizzazione e dei gonzi che girano per il mondo. Il Corriere: virus italiani in quarantena, deciso rientro di 59 connazionali da Wuhan, 14 giorni di isolamento, perché 2 settimane si è notato il tempo di incubazione che ha questo virus. Il 15° giorno uno è fuori dal rischio, mentre la Cina è sempre più sola, le compagnie tagliano i voli, Starbucks e IKEA chiudono, le compagnie tagliano i voli. Infatti anche il Manifesto parla di gomme a terra, British Airways e Lufthansa sospendono i voli voli per Pechino e molti paesi rimpatriano i connazionali. Starbucks, McDonald's, KFC sospendono le attività. La Cina si rischia di perdere punti di PIL provocando l'effetto a catena a livello globale, quindi si prospetta anche un'altra crisi pesantissima a livello del mondo, come se non bastassero quelle precedenti. 6.000 contagiati, 140 le vittime, dice appunto il manifesto. Il Fatto Quotidiano, parlavamo tra l'altro di prima della Segre, allora nella cattiveria si dice, ci parla della Mussolini, Segre non fomenti l'odio contro il fascismo, l'ha detto questo. È il coronavirus, OMS non fomenti l'odio contro di me. Questione mondiale della sanità, questa è la cattiveria del Fatto Quotidiano, ma andiamo al Fatto Quotidiano che ci parla appunto anche questo delle gente che scappa, la Cina che è in quarantena, insomma un mondo che si confronta con la grande paura del secolo. Sì, è ancora stessi toni su Repubblica riguardo la Cina. Cina chiusa per virus, e c'è una simpatica vignetta di Altan dove c'è un ben pensante che dice: me la sto facendo sotto, ma per fortuna che ho la mascherina. E poi c'è Filippo Santelli, che è l'inviato, il corrispondente da Pechino, e dice: la Cina cerca di isolare il coronavirus mentre i casi superano i 6.000. Circonda con un cordone sanitario la città di Wuhan per evitare che il contagio debordi nel paese, vieta i viaggi di gruppo, sconsiglia quelli individuali per impedire ai cittadini di portarla all'estero. Speriamo che basti, anche perché i toni sono quelli di aver ingaggiato una guerra contro questo coronavirus. Il Carlino si occupa invece degli italiani che vengono recuperati con un aereo e vengono riportati a casa, emiliani, marchigiani e a Wuhan. Ancora La Stampa ci parla di eccessi dell'isteria collettiva, due cose si impongono da questa epidemia. L'osservatore capace di sottrarsi alla paura archetipa della trasmissibilità del virus e di far prevalere la ragione. La prima è la sproporzione tra i dati di cui disponiamo, non allarmanti, e l'isteria collettiva che sta suscitando questa cosa intorno al mondo. Un bacillo che saltella, che si muove un po' curioso. Un batterio negativo, un bacillo contagioso. Serpeggia nell'aria con un certo mistero. Le voci sono molte, non è proprio un segreto, la gente ne parla a bassa voce, la notizia si diffonde piano per tutta Milano, la gente ha paura, comincia a diffidare, si chiude nelle case, uno scoppio di terrore, un urlo disumano, la peste a Milano. A Milano c'è gente che muore, la notizia fa un certo scalpore, anche in provincia si muore, la peste si diffonde adagio, poi cresce e si parla di contagio, c'è il sospetto che sia un focolaio che parte dal centro e si muove a raggiera, dilaga dovunque. Peste nera, è scoppiata un'epidemia di quelle più maligne, con bubboni che affestano uomini, donne, bambini. L'infezione trasmessa da topi usciti dalle fogne, m'hanno visto abilissime mani lanciarli dai confini. Sono le solite mani nascoste, potenti, che lavorano sotto, che sono sempre presenti. La gente si difende disperata, la peste incalza, viene avanti, si dilaga, si scatena agguerrita, è anche peggio di quella del 20. la peste ci viene addosso, la peste non si ferma più, morti dappertutto, che vengono ammassati come animali, non fa neanche più effetto, sono cose normali, si fotografano i cadaveri, non fa neanche più schifo, ci si lava, ci si pettina, si esce, si va al bar, si scansano i cadaveri, ci fai più caso, ci si abitua così presto, in fondo ne muoiono tanti anche al weekend di Ferragosto. Un bacillo a bastoncino che ti entra nel cervello, un batterio negativo, un bacillo a manganello. Giorgio Gaber che parla di questo incubo nella sua coscienza delle grandi metropoli sopra affollate, e allora parlava peste a Milano, la canzone, leggo anche dalla cronaca di milanese, psicosi virus, via dai ristoranti cinesi. Ovviamente non serve, non vuol dire nulla, perché il cinese è probabile quanto un ristorante italiano o padano, direbbe qualcuno, ma insomma c'è, questa è la psicosi che bisogna assolutamente evitare. Ma veniamo ad altre psicosi, quelle del governo, cade o non cade, perché questo pomeriggio c'è la verifica, e allora Conte via il confronto con i partiti, dice Monica Guerzoni, i partiti continuano a farsi dispettini, poi c'è la crisi dei 5 Stelle che in qualche modo è imprevedibile nella sua fuoriuscita, governo il giorno della fase 2, col rebus delle tensioni 5 Stelle, dice per appunto il Corriere della Sera. Allora oggi il vertice di maggioranza, questo è il giornale che ci spera che cada, ma tutto è ancora in alto mare, Conte incontra gli alleati per stilare l'agenda di governo, PD e 5 Stelle cercano temi non divisivi per non farsi male, visto che la spallata non è riuscita in Emilia Romagna, beh, spero nel suicidio del governo, ma Demme e Grillini cercano di siglare un patto di ferro per le prossime politiche, ma l'intesa è in salita. Insomma, cade o non cade questo governo? Cade la mela dal melo, la pera dal pero è costretta a cascare. Cade la pioggia dal cielo, cadono gli uomini in mare. Ieri un magnifico vaso mi cadde sul naso dal decimo piano, e con un dolce sorriso mi misi allora a cantare. Viva la torre di Pisa, che pende, ma sempre sta su. Viva la torre di Pisa, che pende, e mai non vien giù. Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai: mamma mia, che effetto mi fa. Viva la torre di Pisa, che pende e mai non cadrà. Quando la vedi ai tuoi occhi non credi, è una grande paura ti fa. Ma come fa a stare in piedi? Meglio tirarsi più in là. Dopo si infilano le scale, si sale e lei pende di più. Senti la testa girare mentre ripeti anche tu. Viva la torre di Pisa, che pende, ma sempre sta su. Viva la torre di Pisa, che pende, e mai non vien giù. Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai: mamma mia, che effetto mi fa. Viva la torre di Pisa, che pende, mai non cadrà. Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai: mamma mia, che effetto mi fa! Sì. Viva la torre di Pisa, che pende, mai non cadrà. 9:58 minuti primi, continuiamo questa rassegna stampa. Chiudiamo gli argomenti politici perché, passando attraverso un articolo di Repubblica di Roberto Petrini che riguarda il rapporto che ha fatto l'FMI, il Fronte Monetario Internazionale, che era a Roma guidata da Rishi Goyal, che ieri ha diffuso questo rapporto sull'Italia. I giudizi dell'organizzazione di Washington sono ben precisi: il Conte 2 sta facendo bene, ha instaurato un confronto costruttivo con Bruxelles e la legge di bilancio del ministro Gualtieri è prudente, i conti 2019 sono migliori del previsto e i mercati ci vedono bene. Ieri lo spread ha chiuso a quota 133, ma c'è un'ombra nera all'orizzonte e appunto l'allarme è su quota 100, che andrebbe ricalcolato. Il decreto sulle pensioni andrebbe ricalcolato solo con l'elemento contributivo dello stipendio, e appunto questa cosa, questo studio ha gettato un po' di panico nei sindacati, che dicono sarebbe un bagno di sangue. Dopo la riforma Dini del 1995 gli importi si definiscono con criteri legati all'anno di uscita dal lavoro, ma sono criteri di ricalco, e queste distinzioni verrebbero spazzate via, tutto verrebbe calcolato solo in base ai contributi versati, con grosse perdite per i pensionandi rispetto al sistema attuale. Secondo uno studio di Will Previdenza, ad esempio, un lavoratore che andrebbe a riposo a 62 anni con 35 di contributi con il sistema misto avrebbe un assegno di 12.726 euro. Con il ricalcolo il contributo perderebbe il 26% dell'assegno, circa 3.300 euro. E c'è un'intervista alla ministra Nunzia Catalfo, Movimento 5 Stelle, la ministra del Lavoro, che si è dichiarata molto molto allarmata. Il Fondo Monetario Internazionale avverte: Italia crescita lenta, si è ritmo ma va corretto, ci racconta Federico Fubini. Insomma, il Fondo Monetario Internazionale dice tre cose: cambiare il reddito di cittadinanza, cambiare le pensioni, e dice i salari sono troppo alti. Direi che la ricetta ha senso unico, eh? Comunque, detto questo, piovono pietre tutta sulla classe operaia. Ma veniamo allora alle forze politiche. Partiamo dal PD, rinvigorito e anche un po' forse illuso dal voto Emiliano Romagnolo. Sindaci, sardine, ambientalisti: ma non rifaremo l'Ulivo. Zingaretti studia il partito aperto, l'idea di sedi di condivise con le associazioni. Ma su questo poi c'è Carlo Calenda che fa sapere che esiste e evidentemente si conquista così una paginone sul Corriere. Il PD non ha capito la lezione, dalle urne emiliane faremo noi un terzo polo. Quindi, mentre Calenda ha capito tutto. Ma detto questo, passiamo invece a Renzi, che va all'assalto del PD, si candida in Toscana per levare voti all'alleato. La tentazione capolista nella sua Firenze, in Puglia l'Italia Viva correrà contro il Dem Emiliano, quindi i dispettini di Renzi. Nel tentativo disperato di superare la quota del 5%, l'ex premier sogna un risultato a due cifre e già accende il camper. Tutte cose che qualcuno dice da Prima Repubblica, ma anche da Seconda, Terza, Quarta e Quinta. Prodi spinge per un asse 5 Stelle Democratici per garantirsi il Quirinale. Questo naturalmente è il commento che arriva dal giornale, che ha due nemici, Soros e Prodi, poi ci arriva la Racchete, poi arriva Saviano. Insomma, ci sono i nemici che ogni volta ce n'è un po' per loro. Detto questo, andiamo invece alle sardine, che sono naturalmente in una fase di ragionamento che fa dopo le elezioni emiliane il ruolo fondamentale che hanno avuto. Quindi abbiamo il tema che viene segnalato dal Fatto Quotidiano: Taranto, Genova e New York, le sardine ripartono in treno, preparativi, in Liguria stanno organizzando un convoglio per le prossime regionali, in Puglia un fish mob pro migranti. L'ipotesi che Salvini possa venire per dividere i malati dagli operai qua non è accettabile, dicono le sardine di Taranto. un viaggio nel segno della ferocia delle frontiere, del diritto delle persone a spostarci, dicono le sardine di Genova. Direi che ancora una volta sono dalla parte giusta. Comunque abbiamo qualcuno che fa l'analisi anche di queste piazze, un'analisi più sociologica, ed è Antonio Scurati. Così la passione per il futuro è rimasta schiacciata dalla paura, cioè dagli indignados ai desperados, pagina 11 del Corriere. Nel nuovo secolo lo sconforto ha sostituito la speranza nel progresso e il voto in Emilia non cambia scenario, la sinistra è minoranza nel paese, quindi pochi entusiasmi facili e pochi così trionfalismi davvero fuori luogo. La maggioranza silenziosa è divenuta una maggioranza rumorosa, un popolo impaurito, deluso, risentito, sente di dover gridare in piazza reale o immaginaria il proprio allarme. E c'è il giornale poi che ce l'ha con la Schlein, e quindi troviamo questo Schlein: la nuova rovina delle sardine occupava le sedi del PD in nome di Prodi, e comincia, e quindi la Schlein si entra nell'album del figurino e panini degli odiati dal giornale, quindi non c'è solo la Carola Rackete, Prodi, Soros, Saviano, ma c'è anche la Schlein. Prepariamoci ogni giorno un articolo contro la Schlein per sapere cosa fa suo cugino, che calzini porta, eccetera eccetera. Sfegatate di sinistra, questo è sfegatate di sinistra, parteggia per i centri sociali e i clandestini, quindi vediamo che è il nuovo nemico da mettere appunto in quest'album delle figurine. Ma abbiamo allora invece la Ellie, la nuova estrella, e il Merci Sardines, l'Emilia vista dal mondo, la regione rossa nelle prime pagine dei quotidiani esteri, dice il Corriere di Bologna. Facciamo una rassegna stampa estera allora noi con Marco Marozzi dal Corriere locale. Ellie Schlein, la nuova estrella della scherda italiana, un'enfasi così è il paese mai l'ha dedicata né a Sanchez del PSE né a Turion del Podemos, è la stella supervotata di Emilia Romana Coraggiosa, con video nel suo incontro scontro in strada con Matteo Salvini a proposito dell'assemblea di quest'ultimo dell'assenza di quest'ultimo a Bruxelles, e la punta di diamante di un'esplosione dell'Emilia Romagna su quotidiani stranieri senza precedenti. Questo è quanto. Ma allora la Schlein parla anche dal Manifesto, Piazza Grande, la pagina è dedicata alle elezioni emiliano-romagnole. Si parla di una Schlein in procinto di essere assessore, non sa ancora in quale di Castero. Comunque serve più coraggio, caro PD, abbiamo vinto ma bisogna cambiare. Quindi la Schlein si unisce al coro dei non trionfalisti, anzi quelli dicono abbiamo salvato la pelle, forse abbiamo cambiato anche direzione, ma a questo punto non cambiare davvero. È la Schlein la più votata del centro-sinistra in Emilia Romagna, via memorandum e decreti Salvini, ora una politica più umana. La rifondazione del PD la guardo con attenzione, ma aspetto di capire che cos'è. Una lista civica nazionale, il progetto ancora non c'è, ma il nostro metodo può ispirare altre regioni. Nel frattempo si va a guardare anche il voto a Bologna, nella culla delle sardine, perché qua sono nate il 18 novembre, ricordiamo, il conflitto guarda a sinistra. A Bologna il 64% dei voti per Bonaccini contro il 31% di Borgonzoni, dice Giovanni Stinco da Bologna e dal Manifesto. La questione dei centri sociali però è stata liquidata più volte con gli sgombri, vedi l'ultimo di Coiulis M24. Sì, di Ellie Schlein ne parla persino La Stampa, il giornale di Torino, con un corsivo di Mattia Felt, il quale si meraviglia che Agostino Viviani fosse il nonno di Ellie Schlein. Ellie è stata la più votata in Emilia Romagna, 22.000 preferenze, un video nel quale chiede a Salvini perché sproloqui di migranti dopo aver disertato 22 riunioni europee sull'immigrazione. E il nonno fu nel Partito Nazione, nel Comitato di Liberazione Nazionale, senatore socialista e infine infine radicale. Si laureò a Siena e aveva la camicia bianca quando invece tutti avevano la camicia nera. È ancora che si occupa di politica La Stampa e parla di oggi il vertice dei grillini i quali temono l'agenda targata PD. Dopo il voto in Emilia Romagna si temono le modifiche del PD sul reddito di cittadinanza e decreti sicurezza. Oggi il vertice che apre 3 settimane di verifica. L'ex ministra Grillini Lezza dice no a un campo progressista, siamo fuori dai partiti. E invece di tono diverso Repubblica, che titola così: il Movimento 5 Stelle nell'anarchia, rinviati gli stati generali. L'evento di rilancio era fissato per il 15 marzo, taverne e lombardi si muovono per spingere il movimento a cercare intese col PD, almeno in 5 regioni. e Spadafora si schiera con loro. E riguardo al futuro dei Dem c'è un bell'articolo di Giovanna Vitale che intervista Roberto Gualtieri, candidato del centro-sinistra, ministro dell'economia, e anche lui fa una serie di battute e fra l'altro dice: stimo Elly Schlein, bene coinvolgere le sardine, ma serve pure parlare a quei ceti che rifiutano l'estremismo di Salvini e Meloni. E ho accettato di correre alla Camera nel collegio che era di Gentiloni quando mi è stato detto che il mio nome avrebbe unito tutti. Questo era l'intervista a Roberto Gualtieri. Nella Lega abbiamo qualche contraccolpo sulla sconfitta in Emilia Romagna, naturalmente sono ancora dei contraccolpi un po' sotto traccia, ma a volte prima c'è la crepa che poi si allarga, poi arriva la frana, speriamo. Francesco Verderami nel dietrologismo eterno del Corriere della Sera dice: cresce la preoccupazione dentro il carroccio, proveranno a consumarci, a consumare Salvini. È il volto che si accredita come una sorta di anti-Salvini, quello di Giorgetti, che peraltro viene smentito naturalmente dagli interessati in questo dissidio interno. Sul manifesto poi si arriva a il citofono di Salvini resta acceso, l'arma via accertamenti, verifiche sul carabiniere che avrebbe messo in contatto la donna che ha indicato l'appartamento del pilastro con lo staff della Lega. Questo carabiniere, già accusato di stalking, era anche in permesso di convalescenza, quindi anche fuori servizio, perciò la cosa è davvero così scottante. L'arma ha aperto questi accertamenti, quindi potremmo dire ancora una volta, come quando Salvini salutò l'ultras del Milan spacciatore, Dio li fa poi li accompagna. Comunque il militare già indagato per stalking e depistaggio non era in servizio. E ricordiamo anche che non è il momento migliore per Salvini per andare in Senato sulla Giorgetti, perché adesso è più debole, quindi rischia Gregoretti, scusate, perché c'era la Maria Luisa della Torre di Pisa, mi ero un po' confuso, la Gregoretti. Caso Gregoretti, la nave militare, secondo cui Salvini avrebbe difeso i confini patriottici impedendo alla nave militare italiana di entrare nel porto. Questo siamo nel tempo dei paradossi. Caso Gregoretti, il Senato vota il 12 di febbraio, questo è la data che arriva. Nel frattempo su questo citofono il giornale già vede il giallo martire: inchiesta sul citofono, assalto giudiziario, maresciallo nei guai per la soffiata al processo Salvini, si decide il 12. Ma poi girando pagina anche nel centrodestra, appunto, Salvini in questo momento lo sente più debole, quindi si cerca di dargli dei colpetti. Allora Berlusconi sfida l'alleato leghista: da solo non vince. Così intende Berlusconi che da soli non si vince? Forse lo impariamo nella cronaca giudiziaria a pagina 9 del Fatto Quotidiano. Cambiamo, a Latina c'è un patto tra clan e politici, perché da soli non si vince. Gina Citrone, coordinatrice del partito di Totti, ma lui non è iscritta, cioè è coordinatrice ma non è iscritta, quindi non c'entra niente. Il governatore: lei ha compilato il form di iscrizione ma non ha mai versato la quota. Questo è il pentito di ipse dixit, ricordo il Fatto Quotidiano. L'intero pacchetto venne chiuso a 25.000, nessuno sapendo che noi siamo i di Silvio, poteva attaccare i manifesti sul nostro candidato. Quindi c'era questo input che, oltre ad essere una scorrettezza nell'attacchinaggio, soprattutto è un segnale agli elettori: chi è pro e chi è contro. Da soli non si vince. Parliamo di lavoro. Le patate bollenti sul tavolo del ministro Patuanelli, ultimatum del governo all'ex Silva: o accordo o tribunale. Per Alitalia invece arrivo di 400 milioni e un nuovo piano di sviluppo. Il caso Whirlpool a Napoli: la produzione è garantita purtroppo solo fino a ottobre. Eni e Enea insieme, due grandi multinazionali per la fusione nucleare. Ops, riprodurre l'energia del sole e delle stelle senza rischi e senza scorie è il grande obiettivo. La fusione nucleare su cui Europa punta con la decisione che vede in prima fila Eni ed Enea insieme con una nuova società per la realizzazione a Frascati del polo scientifico e tecnologico di Vertor Tomomac, un'impresa da 600 milioni di euro con una ricaduta sul PIL di oltre 2 miliardi e 1500 posti di lavoro di qualità. Per presentare la nuova società si sono ritrovati al centro ricerche di Enea di Frascati il ministro dello sviluppo economico, Patuanelli, Gaetano Manfredi, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Ancora notizie dal mondo del lavoro, le abbiamo prese dalle pagine della Stampa, che ci dice che Nestlé rilancia in Italia: nei prossimi tre anni investiremo 150 milioni, l'ha annunciato la Nestlé, per i prossimi tre anni un piano di investimento. L'Italia, spiega Marco Travaglia, dallo scorso 1 ottobre presidente italiano e di Malta, continua a rivestire un ruolo cruciale nelle strategie commerciali di Nestlé. Il nuovo impegno lo segue lo sforzo da 200 milioni degli ultimi tre anni, lo diceva ad Sago a una riunione di industriali. Il Corriere di Bologna, il Paradiso Eco in vendita, torna la paura. La Philips annuncia via mail ai dipendenti che dismetterà lo stabilimento di Gaggio Montano. Siamo dunque preoccupati, c'era motivo di averlo. I 280 dipendenti che vivono in montagna, nel 2015 la comunità si era mobilitata contro gli esuberi. Il Carino invece parla di questi imprenditori, più che altro imprenditori rapaci, finti lavori per i permessi di soggiorno. L'accusa: oltre 200 contratti fasulli stipulati ai migranti, racconto della cronaca bolognese del Carlino. Un imprenditore finisce in carcere, interdittive per la moglie e tra i professionisti. C'era anche chi, per la cosiddetta assunzione fittizia, otteneva permessi o misure alternative. Come si otteneva questa, tra virgolette, assunzione? Vuoi il tempo indeterminato? Sono 1000 euro, il tariffario di servizi e l'agendina della contabilità. Girando pagina andiamo a un settore che naturalmente è in crisi, grazie a causa, probabilmente l'online e la calo di letture, parli anche delle edicole. E per chi come me è uomo dell'altro secolo, la carta stampata è vita, e anche, e mi sembra di far la parte di quelli che domavano i cavalli o battevano il rame, cioè. Però detto questo, la notte delle edicole, presidio di democrazia. Professor Monti, presidente della FIEG, all'apertura serale di Via Sardegna, successo il primo esperimento nato per sensibilizzare istituzioni e cittadini, perché davvero c'è una gran difficoltà delle edicole per sopravvivere. E allora su questo problema siamo andati ad ascoltare Giuseppe Marchica, segretario nazionale della SINAGI, sindacato appunto della categoria. Quali sono le principali ragioni della crisi delle edicole? La principale o le principali sono: uno, che gli italiani leggono sempre meno; due, che soprattutto i giovani sono poco abituati a leggere i giornali, perché, e questo è un parere diciamo personale, ma credo che non sia solo personale, molto spesso si accontentano dei titoli e quindi le informazioni che arrivano dal web sono sufficienti, mentre i giornali sono una cosa dove si approfondiscono le questioni, dove il solo titolo non ha nessun significato se non corredato da un articolo. Quindi non è il web che ha ammazzato l'editoria, questo è quello che racconta qualcuno per spostare il problema. In realtà non è così, non è il web, non sono gli abbonamenti dei giornali in PDF, non è quello che ha ammazzato, che sta ammazzando il sistema, ma sono il fatto che si legge meno e soprattutto il fatto che, ad eccezione di alcuni editori, pochissimi, in questo settore non si investe più. Ci sono tantissimi editori che fino ad alcuni anni fa facevano un'operazione molto importante di restyling delle pubblicazioni, ne tiravano fuori di nuove in continuazione, enciclopedie collezionabili che ne uscivano in misura enorme, e da alcuni anni tutto questo non avviene più, e quindi il panorama editoriale è molto fermo, secondo me anche vecchio, e questo si aggiunge al fatto che ci sono crisi economiche, che c'è una crisi di rottura, in più non c'è l'offerta, e quindi la somma di tutte queste cose porta a una situazione che è abbastanza critica. Visto che tra il vostro lavoro e quello, come dire, degli editori c'è una sorta di necessità reciproca, è possibile pensare a una forma di alleanza? È quello che noi gli abbiamo chiesto, ma loro sono molto d'accordo con tutto quello che gli diciamo, purché noi gli chiediamo dei soldi. Noi gli abbiamo proposto di andare a stabilire una sorta di equo compensa, come quello per i giornalisti, no? Che è proprio minimo, e gli abbiamo detto: proviamo insieme a vedere quali sono i livelli entro il quale le attività possono tutte rimanere in piedi. Quindi le attività sono quelle dell'editore, sono quelle dei distributori, dei trasportatori e dell'edicola. Loro sono disponibili a fare tutto, a fare tutti i patti che si vuole, a dare una mano sui servizi per vedere anche loro quali servizi portare in edicola, ma quando si parla di denaro a quel punto crolla tutto. E questo dunque le cause e problemi legati al mondo degli edicolanti. Veniamo invece al terreno ambientale, una pagina importante giovedì, anche perché è il momento del inserti il manifesto, ma è importante sempre anche negli altri giorni. Per esempio parliamo di Venezia, lo facciamo col Fatto Quotidiano, parliamo della grande opera. Se continuano a non pagare, a febbraio fermiamo il Mose. Tanti auguri per Venezia. Un ultimatum di 6 ditte appaltatrici del consorzio Venezia Nuova. Il governo assicura che i soldi ci sono, ma qui lavoriamo gratis da mesi. La lettera conta, il CIP ha stanziato 413.000 euro. Se ci blocchiamo noi, stop ai test delle paratoie, anche perché sappiamo che il Mose, avendo i motori sott'acqua, ha bisogno continuamente di un restyling continuo fino a 100 milioni di euro all'anno. Questa è la furberia, la vedutezza dei progettisti e di chi ha appaltato. Ma veniamo invece a in Val Bormida, all'Acna di Cengio, che è una storia fin troppo terribilmente paradigmatica dei rapporti tra armi, inquinamento là e inquinamento qua. Il mostro di Fenoglio fece armi per il Vietnam. La denuncia del settimanale diocesano, l'Acna di Cengio forniva defoglianti agli USA, quindi il Vietnam è ancora lì che sta pagando la deforestazione dei nascituri abortiti, sì, perché appunto il defogliante aveva effetti tremendi anche sul genoma stesso dell'uomo. Ma questo là, invece qua, 99-2020, a 21 anni dalla chiusura della fabbrica della morte, la bonifica è ancora incompleta. Hai mai visto il Bormida, che è il fiume, no? Ha l'acqua con sangue raggrumato perché porta via rifiuti dalle fabbriche di Cengio e nelle sue rive non cresce più un filo d'erba, un'acqua più sporca e avvelenata che ti mette freddo. Questo è un incrocio appunto tra distruzione dell'ambiente e distruzione degli umani. E veniamo invece ai giorni della merla, che uno guarda fuori il merlo sarà così, rimaneva bianco, non sarebbe mai infilato in nessuna cappa del camino perché è caldino. E allora come si fa a sciare? Ce lo racconta l'extraterrestre del manifesto, inserto del giovedì. Sbiancaneve non è una favola, anzi una brutta favola. Le Dolomiti si surriscaldano a causa dell'emergenza climatica, l'industria sciistica corre ai ripari costruendo laghi artificiali per produrre neve finta. Lasciamo perdere l'impronta energetica di questa cosa. Comunque, in Trentino ce ne sono già più di 30. Il turismo degli sport invernali inquina a costi energetici ed ambientali molto elevati. Tra l'altro, denunciano gli ambientalisti di Cortina, le prossime Olimpiadi porteranno tanto traffico e tanto inquinamento. Comunque, andiamo avanti a leggere. Intanto Cortina fa le prove generali per le Olimpiadi del 2026, preparandosi ai mondiali del prossimo anno. La città, tra le proteste degli ambientalisti, stravolta dall'impatto di altre infrastrutture e dalla nuova viabilità. Questo è quanto. E quindi il Comune di Trento vuol costruire un nuovo bacino idrico per l'innevamento artificiale, ce ne sono 26, ma quello sul Bondone genera polemiche. E quindi sciare in emergenza climatica, non dico in Qatar, dove c'è questo grande capannucci scia in mezzo al deserto, ma anche da noi, i costi energetici per sparare fiocchi sulle piste da sci italiane. Quindi in Italia vengono usati 95 milioni di metri cubi di acqua e 600 gigawattora di energia. Questo è, ci parlava di energivoro. E invece la buona notizia, facciamo un po' come le Gabanelli, diamo anche la buona notizia. Salvatori del parco, racconta Giorgio Vincenti sempre a questo inserto, la straordinaria marcia degli ambientalisti in 7.000 sulla neve per dire no al taglio dell'area naturale protetta della Lessigna, circa 1.700 ettari, blocca il progetto della Regione Veneto a favore dei cacciatori. Peraltro, visto che sono in argomento fuori, permettetemi questa parentesi parlando del Veneto, chi governa il Veneto? Il governatore Zaia, che allora è un grande storico, perché ci racconta Contropiano, giornale comunista online, il revisionismo storico di Zaia, la guerra del fascismo dalla Russia era per ideali della libertà. Ma veramente era una destra nazifascista che aggrediva la Russia. Comunque, esatto. Il solito posto rivela una graffa orrenda che poi si è cercato di cancellare. Questa volta è toccata al governatore leghista del Veneto, Luca Zaia, secondo cui il contingente militare di spirito del fascismo a combattere insieme ai nazisti contro l'URSS nella seconda guerra mondiale vide sacrificare vite per ideali di libertà e democrazia. Parole di auguri. La gaffe di Zaia è doppia: non solo quello fu una delle più sanguinose e fallimentari avventure belliche del regime fascista, ma i soldati italiani al fronte erano coscritti e non certo volontari, poveretti. Sì, a volte la carta stampata è schizofrenica, o fa delle notizie allarmanti o pubblica delle cose stupide, banali o addirittura futili. E ritornando al tema dell'ambiente, la notizia futile è che Greta Thunberg ha registrato con un marchio di fabbrica i suoi Friday for Future e i suoi cartelli che espone sciopero per il clima. La notizia allarmante invece arriva dalle coste sud ovest della Sardegna, isola di Sant'Antioco, luogo dell'incidente, e c'è un cargo che è incagliato lungo la costa e per toglierlo da lì occorreranno 40 giorni per smontare la nave, per evitare un grandissimo disastro ambientale. Queste sono le pagine che ci riporta La Stampa, e da Sant'Antioco Nicola Pinna che fa tutto il resoconto di questa cosa. Ma caliamoci sull'inserto di Repubblica Ambiente, che è nelle pagine finali appunto del quotidiano di oggi, e ci sono finanzieri che col clima, come tutti gli eventi a casualità, sono disposti a scommettere per fare business negli USA. C'è chi specula sulle conseguenze del clima. Prima degli eventi si comprano azioni di società come la Walmart o prodotti domestici e anche generatori in attesa che arrivi l'uragano, e poi la gente vada a comprare tutte le cose distrutte. E sul mercato nascono anche strumenti sofisticati e speculativi come i derivati climatici, le obbligazioni catastrofali diffuse in USA, in Messico e in Turchia. E quando si parla di sfollati dalle zone soggette ad alluvioni, c'è chi, scommettendo sui danni del clima, investe in azioni di hotel e residence che potrebbero e permetterebbero di ospitare gli sfollati a centinaia. E ancora notizie sul clima la ripeschiamo dalle pagine del Sole 24 Ore, che ci parla di economia circolare e la sfida industriale con investimenti e ricerca per assecondare la domanda del mercato di prodotti green. Il ruolo della Cina e la corsa delle multinazionali a creare composte e modalità di utilizzo innovative. E per il riciclo della plastica ci sono tre strade, appunto per ridare energia all'ambiente o per bruciarlo dentro i grandi forni. Chiudo con il resto del Carlino Bologna, che parla del dopo elezioni in chiave appunto locale. Naturalmente si avanzano i soliti pretendenti, ed è l'apertura del Carlino, le priorità lavoro ed appalti. Maurizio Marchesini sul voto delle regionali, avanti con le infrastrutture. Dice: ha vinto la stabilità, ma questo non basta, investiamo sul lavoro. Insomma, l'appetito viene mangiando, anzi non basta mai. Ma detto questo, proprio chiudo col Toto Giunta del Carlino. Stefano Bonaccini è già al lavoro per completare il puzzle della nuova giunta regionale, e mentre il governatore ha promesso tempi rapidi, Romano Prodi auspica una giunta forte di cui si possa dire che non me l'ha dettata il partito. Tra i nomi più gettonati ci sono quelli del fedelissimo Davide Baruffi, in pole per il ruolo di sottosegretario alla presidenza, di Mauro Filicori alla cultura e di Palma Costi confermate le attività produttive. Vicini al bis anche Andrea Corsini al turismo e Raffaele Donini che balla tra i trasporti e la sanità, mentre il segretario regionale Dem Paolo Calvano sembra indirizzato verso il bilancio. Sergio Venturi alla sanità potrebbe aver declinato l'offerta per un nuovo mandato, mentre con le sue 20.000 preferenze prenota un posto anche a Michelin e crescono le quotazioni di Alessio Mammi, ex sindaco di Scandiano. Sarà costretto a un mini rimpasto anche il primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, che ha perso la sua vice, perso si fa per dire, Marina Pilati, eletta in assemblea legislativa. Per il posto da numero 2 è favorita Irene Priolo, trasporti, Valentina Orioli, urbanistica, mentre la delegazione della scuola potrebbe andare alla consigliere comunale Dem Federica Mazzoni. Non vi dico che naturalmente morto un'elezione se ne fa un'altra, tutti pensano alle elezioni prossime, quelle regionali di giugno oppure quelle comunali, e allora l'idea dei cattolici, candidato civico nel 2021, aperto i cantieri delle prossime elezioni amministrative, racconta Rossella Carbutti dal Corriere, dal Carlino. Don Nicolino va oltre, serve un nuovo movimento, lo stop arriva da Comunione e Liberazione, naturalmente su versione moderata. Don Nicolino che racconta, qui dice mi manda Picone, no, mi sento con una sardina, Santori, ho pranzato con lui prima del voto, questo è. Mentre Lepore si scalda per le comunali, da nuovo sindaco, ma il patto nel PD è in bilico, l'asse Pilati e Caliandro è sfumato, dopo le urne l'area Critelli è già in fibrillazione. Insomma, siamo alle solite. Con questo, con le solite, noi ci congediamo con le letture dei giornali. A risentirci, ciao a tutti.